Non sono qui per sparlare, cazzo. E che qui mi sento solo una marionetta, un cazzo di pupazzo. Un pupazzo incazzato, cazzo. Allora prendi questo. Mi hai dato poco perché vivo in niente. Un fuorigioco permanente. Mente limitata, mente che vive marginalmente. Tra gente che mente, un diamante che brilla sempre. Scintillante macchinone, mente sotto pressione. Costantemente andato odio perché voglio l'ingiustizia. Non c'è podio, non c'è studio, non c'è niente che mi sazia. Qui tra stravizi, scugnizi, pago pizzi per restare. L'omertà qui ci fa tacere. Siamo nati per sperare che la vita porti un talento che porti via di qua. Partorisca saggezza, fermezza. Chi ci disprezza sa che qui comanda cosa nostra, la mafia, il futuro, che ce la prendiamo in culo. Eh sì, costantemente. Perché chissà che non ho niente, di sicuro mente. Ma è maturo, sente che sono insicuro. Come sempre caro quanto un iPhone 4. Questo mio orgoglio, quanto voglio. Per cui muoio, ingoio fino all'esplosione. Da Roma a San Paolo un passo verso Sodoma e Gomorra. Come Saviano in Gomorra, come Mel Gibson nella passione. Vedo l'ossessione per il sesso e per il lusso. Somma strosse e carcagnosso hanno lasciato la devastazione. I bambini di Brooklyn sbaccian crack per mangiare. Ser Tupaca a quanto pare per loro è solo scopare. Solo soli in solitudini, senza soli con nuvole. Favole che Ser Pablo e scopare e Ser Vincenti. Che piantano a Bogotà, esporta a Napoli, a San Paolo. Da lì gira per il mondo come l'idea di un cambiamento. Che qui non arriva, ma ti arrivano le Nike. Qual ti falco ne vedrai, dobbiamo essere come Mike Tyson. Strappare le orecchie a morsi, uccidere il disagio. Perché homem vuol dire che l'uomo stesso è il suo presagio. Col sangue di Luther King e il talento di Nat King. È un tag team su questo ring, sto con lo sfidante Jen King. Se non sai lo che io passé, se non sai io, da chegar até aqui, da chegar até aqui. Se non sai lo che io passé, se non sai io, da chegar até aqui. Meu nome, Vitor Andolini. Meu estilo sublime. Foram duas opções, o rap ou o crime. Rap é minha escolha, lápis, borracha e folha. E eu tô de pé, olha no meu olho, olha bem pra mim. Se isso é o começo, imagina eu lá no fim. É difícil, né, de imaginar. Não vou negar, com esse jeito de bandido é difícil de aturar. Não é marra, é garra misturada com talento. Atravessa o meu caminho, viado, eu te arrebento. O jogo é injusto, filho, eu lamento. A cada passo que eu dou, tô sempre atento se for tirar em mim. Vê se não erra, foda-se a paz. Eu vivo em guerra enquanto não passo dessa pra pior. Eu faço o meu melhor, vendendo mixtapes, tapes e tracks, raps. Tudo na porra de um CD, meu som vicia você. Forte e amargo tipo cocaína da Colômbia. Organizado tipo a máfia italiana e pá. Meu produto vai vendendo a cada dia a mais. No meio da estrada não posso voltar atrás. Tiros e mais tiros, tio vai segurando a cada cena lançada. Mas nego me olhando, acompanhando o crescimento do rei da Barra Funda. Meu barco tá furado, mas essa porra nunca afunda. Eu sou o comandante, é esse o mistério. Não ouço mais risada, eu só vejo nego sério. Putos invejosos, preocupados comigo. Ganhei alguns fãs, milhares de inimigos. Meu Deus, me explica o que acontece com esses filhos seus. Cê não sabe o que eu passei. Tô de pé, tô firmão! Eu vi nos comentários,